Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È uscito il primo rapporto dell'Osservatorio del Politecnico di Milano dedicato ai droni. Il settore, questo non sorprende, in fortissima evoluzione, crescono i numeri, cresce il fatturato e, cosa che a noi di Smart City interessa anche di più, si evolve la tecnologia per far fronte ai limiti dell'attuale generazione di droni, quei multicotteri che nella versione basic ormai troviamo anche nei supermercati. Naturalmente poi ci sono versioni molto più evolute. Di tutto questo parliamo con Paola Olivares, Project Manager dell'Osservatorio Droni del Politecnico di Milano. Buonasera Olivares. Buonasera, buonasera. Allora, ci viene l'obbligo di partire da qualche numero di mercato, per esempio quante imprese sono attive in questo settore in Italia, più o meno quali sono i fatturati? Allora, diciamo, il mercato dei droni possiamo definirlo come un mercato emergente. Emergente perché ha tre caratteristiche principali. È un mercato innanzitutto economicamente modesto, vale 100 milioni di euro nel 2018. È un mercato giovane perché la metà delle aziende che ci sono sul mercato sono baby, insomma. Esatto, sono nate tra il 2013 e il 2017 e sono molto piccole. È un mercato però con un alto potenziale come ci dicono i due aziende su tre in questo mercato, che lo vedono come in forte sviluppo entro i prossimi tre anni. Possono essere tantissime le applicazioni dei droni, ne abbiamo anche parlato spesso in trasmissione, ma quali sono quelle su cui oggi ci si concentra prevalentemente e quali sono, andando a guardare i progetti di sviluppo industriale, quelle emergenti? Sì, allora, come dice giustamente lei, ci sono davvero tantissimi settori che stanno sperimentando la tecnologia, molti di più di quelli che uno potrebbe aspettarsi. Quindi andiamo dalle applicazioni, chiamiamole un po' più classiche, come le ispezioni, i sopralluoghi, il monitoraggio. Nei cantieri, per esempio, no? Esatto, nei cantieri, per quanto riguarda grandi infrastrutture, piuttosto che nel mondo delle utility. Ecco, questo è un ambito. Ci sono però anche altri ambiti, come può essere quello l'ambito ambientale, in cui i droni sono ormai largamente usati anche nella ricerca di dispersi, piuttosto che nella gestione poi di emergenze. Un ambito che sta riscuotendo particolare interesse e successo è quello della logistica. La prima cosa che viene in mente è il trasporto dei pacchi di Amazon. Questa è un qualcosa di ancora embrionale. Certo. Se vogliamo, e forse in qualche paese lo resterà anche, perché insomma è più facile farlo in Tanzania, un po' più difficile farlo in Italia per fare proprio per ragioni di densità abitativa. Esatto, serve anche un po' di cambiamento a livello normativo per poter andare un po' incontro certo. a queste applicazioni. Ecco, in ambito logistico è interessante anche la gestione dell'inventario fatta con i droni, che permette poi di sostituire delle attività anche fatte dall'uomo, generalmente che avvengono di notte, e quindi un'applicazione interessante anche da questo punto di vista. Quindi in questo caso parliamo, immagino, di droni che svolazzano all'interno di magazzini riconoscendo quello che c'è e quello che non c'è. Stiamo parlando di una situazione del genere. Esatto. E allora veniamo invece all'aspetto tecnologico. Dicevo in apertura del tentativo di superare i limiti dei droni attuali. Quali sono questi limiti e quali quindi sono le possibili risposte che si stanno mettendo in campo? Sì, allora, la tipologia più diffusa di drone, che è quello che conosciamo tutti, è il multirotore, che certo. generalmente è un quadricottero, ma può anche essere un esacottero. Certo. Quindi quei droni adatti per il volo a bassa velocità e a punto fisso. Va da sé però che questa tipologia di droni ha dei limiti in termini di prestazioni, di endurance, di peso trasportabile, che sono difficilmente superabili. Sono le leggi della fisica che impongono di fatto questi esatto, limiti, no? Consumo esatto. di energia e quindi di conseguenza gittata e quant'altro. E quindi esatto. cosa si sta facendo? Ecco, un'altra soluzione, diciamo, più esigua è la configurazione ad ala fissa. Questa è adatta per coprire lunghe distanze in modo efficiente, ma sicuramente una modalità di decollo. Ecco, perché parliamo di oggetti più simili, in questo caso degli aerei, rispetto agli altri che sono più simili a degli elicotteri, no? Esatto, dei piccoli aerei. Questi droni appunto ad ala fissa, che sono adatti per coprire lunghe distanze, hanno invece qualche problema in fase di atterraggio e di decollo, in quanto non sono come i multirotori che sono in grado di decollare e atterrare in verticale, ma hanno bisogno invece di più spazio per sostanzialmente decollare o atterrare come un aereo in miniatura. Ecco, abbiamo studiato con l'osservatorio tre possibili configurazioni alternative che possono cercare di superare un po' i limiti, diciamo, tecnologici di endurance e di range di cui abbiamo parlato fino adesso. Sono tre. Abbiamo i convertiplani, che sono dei droni con un sistema propulsivo in grado di variare la propria configurazione durante il volo. Questi si comportano come dei multirotori in fase di volo verticale, di decollo in pratica, di decollo e di atterraggio, e come un velivolo ad ala fissa invece per la parte di volo più avanzato. Abbiamo poi quelli che si definiscono tail sitter, che sono invece capaci di atterraggio e decollo verticali e di grandi variazioni di assetto per operare, ecco, in modo anche efficiente in volo avanzato. In questo caso cosa fanno? Orientano le eliche in pratica? Esatto. Sostanzialmente cambiano assetto durante il volo. Ecco, abbiamo poi una terza categoria, che sono invece i droni a propulsione duale, che sono invece dotati di rotori per la propulsione verticale e di eliche per la propulsione invece longitudinale. Va bene, allora grazie Paola Olivares. Grazie mille a lei, è stato un piacere. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani alla stessa ora qui su Radio 24. Buona serata.